Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Sono giornate delicate per i mercati finanziari che adesso, come se non bastassero i tradizionali motivi di preoccupazione, la crisi del debito sovrano europeo, la recessione, la disoccupazione, negli ultimi giorni hanno dovuto anche occuparsi della crisi siriana e del paventato attacco delle forze occidentali. Circostanza che, come da copione, ha fatto subito impennare le quotazioni del petrolio e scendere le azioni. Il mercato obbligazionario europeo in particolare ha risentito della tensione politica italiana ed è apparso rasserenarsi solo nelle ultime giornate, ieri all'indomani del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla cancellazione dell'IMU. Sullo sfondo le attese degli operatori per le decisioni future delle banche centrali di tutto il mondo e la crisi che sta propagandosi in alcune aree dei paesi emergenti, in particolare in India. E con questi temi si chiude l'estate 2013. Un bilancio incerto, qualche preoccupazione per l'autunno che verrà. Tra l'altro, questi sono temi che sono stati largamente affrontati per tutta l'estate dal Sole 24 Ore, con le pagine dedicate ai piccoli risparmiatori. Il tuo portafoglio, questo è il nome appunto della pagina che si occupata per tutte queste settimane di questi argomenti, e anche oggi noi facciamo una piccola analisi sulle promesse d'autunno dei mercati. La pagina, tra l'altro, di stamattina del tuo portafoglio sembra proprio tagliata a misura di Salva Danaio, si chiama Check Up, i consigli degli esperti per piccoli portafogli. Allora, quali sono le domande che vi state facendo, le curiosità sull'andamento dei mercati finanziari che state prendendo in considerazione in questo momento, in vista anche di una, se volete, se vorrete farla, riorganizzazione del vostro portafoglio appunto di investimenti? Raccontatecelo all'800240024 e noi confronteremo le vostre idee, le vostre analisi, le vostre considerazioni con quelle dei nostri ospiti di questa mattina. Saluto e ringrazio Simone Calamai, amministratore delegato di Fanstore.it. Buongiorno. Buongiorno. Fanstore è una piattaforma online di fondi di investimento, quindi attraverso questa piattaforma un risparmiatore può da solo, senza consulenza, investire appunto e acquisire quote di fondi comuni di investimento. Un approccio che non piace molto ai promotori finanziari, quindi magari, se vorrà dire la sola, potrà fare Alma Foti, consigliere nazionale dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quindi insomma due visioni anche interessanti a confronto questa mattina, per chi lo ricordasse, con Alma Foti in passato abbiamo parlato di educazione finanziaria nel mondo della scuola, lo abbiamo fatto, se non ricordo male, in occasione del Salone del Risparmio, esatto, di Milano lo scorso aprile. Allora, oltre al numero verde per intervenire in diretta, per interagire con noi avete le consuete modalità, che sono gli SMS 349-238-6666. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Potete scriverci su Facebook, su Twitter, e come sempre siamo raggiungibili ovunque. Mi segnala adesso il responsabile dell'inserto Plus 24 del Sole 24 Ore, che sarà in edicola domani, Paolo Zucca, che proprio il tema dell'andamento delle economie emergenti è il tema della storia di copertina di domani di Plus 24. Colossi come Russia, Cina, India hanno corso molto in questi anni, adesso vengono abbandonati dagli investitori convinti che il dollaro e i rendimenti americani possano garantire maggiori ritorni nei prossimi anni. E allora anche quei risparmiatori che avevano scelto i paesi emergenti per allargare geograficamente l'orizzonte degli investimenti si trovano oggi borse deboli e valute locali molto deprezzate. Cosa fare? Abbandonare queste aree oppure proprio, come dire, addirittura raddoppiare, se si vuole, il proprio investimento puntando su questa debolezza, perché magari chiaramente in futuro queste aree recupereranno. Quindi anche questo è un tema molto interessante. Prima di tutto questo però la giornata di borsa. Giornata negativa, come vi dicevo nel giornale radio, abbiamo ribassi di oltre mezzo punto percentuale su tutte le piazze finanziarie europee, oltre mezzo punto di calo a Parigi, a Francoforte, a Londra e a Milano. A Milano i titoli più gettonati stamattina, come vi dicevo anche nelle anticipazioni, Telecom più 7%, questa società non vedeva queste prestazioni da tempo. Oggi il gruppo beneficia di un report positivo degli analisti di Bernstein che sostengono che il gruppo potrebbe essere coinvolto nel risico europeo del settore. Tra gli altri rialzi, UbiBanca più 1, Saipem più 0,7, Popolare di Milano più 0,5, A2A più 0,45%. In discesa media 7-2,39, meno 2 anche per Azimut e per il Banco Popolare. Lasciamo la borsa di oggi, però comunque sui mercati continuiamo ancora a mantenere la nostra attenzione insieme ai nostri ospiti di questa mattina. Volevo cominciare subito con Alma Foti. consigliere nazionale dell'Associazione dei Promotori Finanziari, promotrice finanziaria lei stessa, appunto perché mi piacerebbe capire un po' nei confronti che continua a fare con i suoi clienti, quali sono le preoccupazioni in questo momento o i temi su cui stanno concentrando la propria attenzione appunto i risparmiatori italiani. Risaluto di nuovo tutti. Tra l'altro anche ANAS fa dei sondaggi periodicamente, quindi anche il punto di vista più allargato dell'associazione è sicuramente interessante. Sì, chiusa parentesi. Certo. Niente, quest'anno è un anno complicato perché segue invece a un 2012 dove i risultati sono stati decisamente soddisfacenti e superiori alle aspettative dei clienti, soprattutto per quello che riguarda il reparto obbligazionario, quindi la parte tranquilla del portafoglio. Quest'anno abbiamo iniziato proprio con i timori che invece questa parte non desse soddisfazioni, quindi cercando di aumentare il livello di rischio dei clienti, sempre in linea però con la profilatura del cliente stesso e in linea con le loro esigenze. In realtà poi ci sono stati dei fortissimi ribassi per quanto riguarda il mercato obbligazionario, soprattutto emergente, su cui avevamo delle e abbiamo tuttora comunque delle buone aspettative, perché i tassi comunque sono più alti rispetto a quelli del mercato governativo europeo. Ma la discesa delle valute locali ha creato sicuramente delle grandi preoccupazioni. Il mercato invece azionario, molti sono situati nei mercati emergenti che, come si diceva prima, invece stanno scendendo, non stanno dando le giuste soddisfazioni. Ora, quello che si cerca sempre di stare a fianco al cliente, rivedere se la profilatura e la diversificazione, prima di tutto se c'è una buona diversificazione del portafoglio, quindi in nessuna concentrazione né nel mercato obbligazionario né nel mercato azionario, e se sono state fatte delle scelte, secondo me vanno assolutamente mantenute e mai fare degli spostamenti quando c'è questa volatilità. A seconda anche, come dire, del trend di mercato, che magari può essere un trend che non ha nulla a che fare appunto con le esigenze di un risparmiatore, del quale si può totalmente disinteressare. Tra l'altro c'è anche questa analisi, io la segnalo, condotta da Antonio Criscione e Isabella Della Valle sul Sole 24 Ore di questa mattina, che si occupano proprio della diversificazione per piccoli portafogli, perché noi chiaramente diamo sempre questa indicazione di cercare di non mettere tutte le uova in un paniere, è la regola aurea, no? Nel panorama degli investimenti, però è anche vero che se, come dire, la quota da investire è molto piccola, la diversificazione rischia di se si polverizza troppo il proprio investimento, si rischia solamente di pagare troppe commissioni su tanti asset appunto in maniera inutile. Per piccoli portafogli, Alma Foti, lei che cosa suggerisce ai suoi clienti di fare? Come si fa ad ottimizzare appunto il proprio portafoglio in casi come questi? Beh, intanto il suggerimento è quello di stare nei fondi, perché già il fondo di per sé è uno strumento diversificato e quindi consente anche con un solo fondo di avere più titoli in portafoglio. Poi, senza volermi ripetere, consiglio sempre ai clienti, sia per piccoli che per grossi portafogli, di essere molto sinceri su quello che è la propria profilatura, la propria modo di affrontare la volatilità del portafoglio. Se si è coerenti su questo e sulle proprie esigenze e gli obiettivi che si ha su quel risparmio, è molto semplice fare una giusta diversificazione. Certo. Allora, Simone Calamai, fanstore.it, voi distribuite, se non ricordo male, se non ho letto male, fondi di investimento di 120 banche d'affari, di 120 appunto società di gestione del risparmio. Che cosa sta emergendo appunto dalle scelte di investimento che stanno inserendo i risparmiatori appunto che si rivolgono a strutture come questa? Puntano per esempio sull'India, che sta scendendo molto, oppure, perché insomma sulla debolezza si dovrebbe cominciare a comprare qualcosa, oppure continuano a scappare? Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Fanstore è interessante perché rivolgendosi ad una platea di risparmiatori totalmente indipendenti permette di avere veramente così un'occhiata generale di quello che è il comportamento medio del risparmiatore italiano. Sicuramente c'è stata una grande concentrazione, o comunque un forte interesse nei confronti di tutti quei settori geografici in particolare, ma non solo, penso ad esempio alle materie prime, che hanno dato grandi performance negli ultimi mesi, quindi paesi emergenti, fondi sulle materie prime e così via. Indubbiamente però il fatto di avere a che fare con una serie di risparmiatori che sono, oltre che indipendenti, anche molto informati e consapevoli probabilmente di quanto diceva la collega prima in merito a quello che è il proprio profilo di rischio, ci consente di vedere che sempre più risparmiatori si rivolgono direttamente all'abilità del gestore, quindi evitando di farsi una sorta di asset allocation personale, demandano più volentieri la scelta dei propri investimenti direttamente al gestore. FundStore ad oggi distribuisce circa 4.500 fondi diversi e sono sempre più quelli veramente di qualità, non che non fosse così anche prima, però sicuramente le nuove tecnologie, i grandissimi passi avanti che sono stati fatti in termini di qualità e quantità di informazione mettono in condizione gli operatori del settore di svolgere al meglio il proprio lavoro. Certo, senta Calamai, mi racconta che cosa è successo sulla vostra piattaforma quando lo spread ha preso il volo a 570 punti base 2 anni fa, così per curiosità, per capire in quel momento anche la tensione tra i piccoli risparmiatori che hanno dovuto prendere confidenza con questo termine del quale nessuno prima aveva mai sentito parlare. Appunto, che tipo di scelta hanno fatto in quel momento? Scappavano tutti oppure puntavano su fondi italiani obbligazionari governativi? Ecco, allora anche questo è molto interessante perché avere a che fare con una platea di investitori, come dire, che governano in prima persona i propri portafogli, ci ha messo in condizioni di osservare che, per esempio, non c'è stata la fuga dal mercato che uno si sarebbe potuto aspettare in condizioni così estreme come quelle che si sono verificate. Quindi molti più persone di quante noi probabilmente avremmo ritenuto hanno mantenuto i nervi saldi, mantenendo le posizioni e magari provvedendo in maniera più o meno graduale a riallocare i propri investimenti in settori in quel momento più vantaggiosi. Devo dire che la grande maggioranza dei nostri clienti prediligono comunque fondi diciamo con contenuto azionario o comunque non obbligazionario o monetario. E quindi tutto quello che è successo in termini, tutto quello che si è verificato sul mercato relativamente ai movimenti sui corsi obbligazionari, diciamo, ha toccato solo in parte, per fortuna, i portafogli delle persone che utilizzano FundStore per i propri investimenti. Allora, a proposito dei titoli di Stato italiani, adesso c'è una domanda di un ascoltatore. Prima però sentiamo come sono andate le aste di questa settimana nel nostro riepilogo. La politica italiana, che per un motivo o per l'altro risulta sempre traballante. La difficile situazione in Siria che sta destabilizzando gli equilibri mondiali. Le preoccupazioni per le scelte che, in particolare dagli Stati Uniti, potrebbero presto arrivare in materia di politica monetaria. Sono tanti gli elementi di incertezza che vanno a complicare il quadro di fine estate dei mercati finanziari. Un quadro che ha visto l'Italia protagonista nella settimana che si sta concludendo con una serie di aste di titoli di Stato. Martedì il Tesoro ha venduto quasi tutti i 3 miliardi di CTZ a 24 mesi. I tassi in questo caso si sono rivelati in leggero rialzo, mentre sono risultati in calo quelli sui BTP indicizzati all'inflazione, collocati per 1 miliardo di euro. Sia quest'asta che quella del giorno successivo, però, 8 miliardi e mezzo di bot semestrali, sempre con tassi in leggera risalita, non sono tra le più rappresentative del cosiddetto rischio paese. Più la durata di un titolo è breve, più il mercato lo assimila a un bene rifugio, quasi immune dal rischio. Più indicativo l'andamento dei 6 miliardi di BTP a 5 e 10 anni, interamente collocati ieri. Dopo l'asta, i tassi sono risultati in rialzo sul titolo a 5 anni, ma lo spread è sceso sotto i 250 punti base. Gli analisti parlano di una domanda debole a fronte di rendimenti stabili. Gli investitori, soprattutto quelli stranieri, pare siano ancora poco convinti degli sviluppi della politica italiana. Si sa, l'autunno, stagione ormai per eccellenza calda da questo punto di vista, deve ancora cominciare. Molto diverse le domande che stanno arrivando stamattina dagli ascoltatori. Qualcuno si chiede come andranno determinate aree di investimento. Adesso li sentiremo, questi amici appunto che ci seguono da casa. C'è Luca dalla provincia di Venezia, l'altro abbiamo perso la telefonata. Adesso Luca lo sentiremo, però visto che abbiamo affrontato nella nostra scheda la settimana delle aste del tesoro italiano, che hanno visto comunque tutto sommato, nonostante in questa paventata crisi di governo lo spread avesse ripreso ad allargarsi, le aste hanno tenuto e anzi i rendimenti sono risultati stabili. Il mercato è meno severo di un anno fa, di due anni fa appunto, nei nostri confronti. Alma, Foti, quando appunto, ritornando alle fasi dello spread che aveva preso il volo e comunque picchi che abbiamo rivisto anche tra l'altro lo scorso anno in questi mesi qualche volta, in quei frangenti con i suoi clienti che cosa è successo? Beh, sono stati dei momenti abbastanza topici, indimenticabili per tutti, direi. Sì, sì, abbastanza complicati. Ecco perché dico che tutto sommato quest'estate non è andata malissimo, ricordando quella del 2011, mm-hmm. dove veramente lo spread andava alle stelle. In questi momenti, come in tutti i momenti, io dico l'importante è stare a fianco ai propri clienti, rivedere le proprie posizioni e cercare di spiegare cosa sta succedendo. E quindi in linea di massima io ribadisco non fare spostamenti quando c'è molta volatilità. Mm-hmm. Allora c'è un ascoltatore che invece, Carlo, solleva un problema che abbiamo sollevato inevitabilmente anche noi in diverse trasmissioni sul tema della rimodulazione della tassazione sugli investimenti, appunto, che è stata decisa anche dalle diverse manovre del governo Monti, in particolar modo appunto nei vari pacchetti Salva Italia, Cresce Italia eccetera, appunto ci sono arrivati anche questi nuovi balzelli, fra cui la mini patrimoniale, su cui peraltro molte società di gestione del risparmio stanno facendo delle battaglie perché sono davvero inique, soprattutto per piccoli portafogli. Il tema delle commissioni appunto sui prodotti di investimenti rappresenta oggi un problema, Alma Foti, con i suoi clienti? Ma diciamo che ha reso un po' più complicato il discorso della conversione da un fondo all'altro, del cosiddetto switch, perché rimanendo nella stessa casa di investimento non veniva contabilizzato, non veniva pagato la tassazione sulla plusvalenza e la minusvalenza si andava a compensare con la plusvalenza. Adesso questo non è possibile, ogni volta che si fa una conversione viene considerata una vendita pura, per cui la minusvalenza viene certificata, la plusvalenza si va a pagare la tassazione. Anche questa è una grande anomalia, non si capisce perché sulla plusvalenza devo andare a pagare immediatamente, la minusvalenza la posso andare a compensare però soltanto su un deposito amministrato, veramente un'iniquità incredibile. Simone Calamai, lei sul tema della tassazione invece avete avuto, come dire, trend particolari alla luce delle novità legislative che sono arrivate quest'anno e che hanno penalizzato appunto molto i risparmiatori? Beh, fortunatamente no, la volontà di risparmio e la capacità di risparmio degli italiani non è stata in questo senso toccata, almeno per quanto abbiamo rilevato. Certo è che un po' tutto il settore, tra aumento della capital gain, introduzione della Tobin Tax, la tassa sui depositi bancari, che ricordo, e sui dossier titoli, che quest'anno passa all'1,5 per mille senza massimo, l'introduzione appunto dello switch, che non è più uno switch ma una vera e propria vendita e successivo reinvestimento con la tassazione nel mezzo, come dire, sono tutte cose che mettono, come dire, a dura prova tante volte anche la volontà di risparmio del pubblico. Esatto, anche perché per la verità poi alcuni di questi provvedimenti sono passati un po' sotto traccia e qualcuno se ne è accorto solo quando appunto la banca ha operato il prelievo e sta rappresentato per qualcuno evidentemente anche una sorpresa negativa. Adesso vado a Luca da Venezia, volevo però fare un'altra domanda a Simone Calamai. La crisi degli ultimi anni appunto ci ha dimostrato quanto sia importante che qualcuno, per soprattutto coloro che non sono abituati ad occuparsi di materie finanziarie, quanto sia importante che qualcuno ci accompagni nei percorsi appunto di risparmio e ci spieghi quello che succede. Mi chiedo chi è il risparmiatore tipo che invece vuole fare tutto da solo, appunto, e che si rivolge ad una piattaforma per scegliere fondi di investimento in maniera del tutto autonoma da un consulente. Il profilo è un profilo, da un punto di vista anagrafico, che ricalca assolutamente quello che è l'investitore medio di fondi in Italia, quindi un maschio tra i 40 e i 50 anni con un'istruzione media, residente nel centro-nord dell'Italia oppure in grandi città del centro-sud. In realtà questo vuol dire tutto e poi vuol dire anche niente, sono semplicemente persone che per delusioni avute in passato, piuttosto che per predilezione personale nei confronti della materia, semplicemente cercano strumenti e il web o comunque le nuove tecnologie ne mettono a disposizione tanti per potersi gestire in proprio, come dire, i propri denari, i propri. 4.500 fondi sono quelli che sì. intermediate. Mi chiedo appunto che voglia abbiano di mettersi a studiare anche le caratteristiche per non andare così a fare degli investimenti avventati. Beh, ci sono degli strumenti in parte sul nostro sito e in parte anche fuori che consentono già, come dire, una buona scrematura di quelli che potrebbero essere i prodotti che più fanno al caso del singolo investitore. In ogni caso, noi riteniamo FundStore non solo uno strumento buono per il cliente finale che abbia voglia, come dire, di fare il proprio fai da te, ma è anche uno strumento che si complementa perfettamente con tutta il nuovo mestiere dei consulenti finanziari indipendenti che andranno ad affiancare i promotori finanziari nel compito di, come dire, appunto, affiancare i clienti. E quindi ecco, è semplicemente, si fa per dire, una piattaforma che mette a disposizione tutti quegli strumenti che un cliente normalmente ritrova presso la propria banca o presso il proprio intermediario in maniera molto semplice, trasparente e a un costo di mercato. Alma Foti sospirava, ma io sono convinta che comunque, nonostante l'avvento e il panorama dei consulenti indipendenti, ci sia posto per tutti nel nostro mercato, a patto che naturalmente la clientela si segua con lealtà, correttezza, appunto, e capacità di rasserenare le persone, soprattutto nei momenti difficili. Allora, Luca dalla provincia di Venezia, lo saluto intanto. Luca, ci sente? Io sa che chiacchiero molto e quindi sono già andata alla fine del primo blocco, devo andare in pausa. Adesso ci aspetta 2 minuti, ascoltiamo insieme la pubblicità. Certo, vi Grazie, aspetto. a tra poco. Salva Danaio. Dopo esserci abituati negli ultimi 2 anni allo spread, entrato in un modo o nell'altro nei discorsi della gente, con la fine di quest'estate potrebbe arrivare sulla bocca di tutti un nuovo termine economico, il tapering. Questa nuova parola di moda, se è possibile definirla così, arriva dagli Stati Uniti. E si può tradurre come riduzione o fine degli acquisti di titoli di Stato governativi, per la precisione, da parte della Federal Reserve, la banca centrale americana. Politiche orientate in questo senso, anche da parte della BCE, hanno garantito un certo equilibrio dei mercati negli ultimi mesi. Ed è proprio per questo che un'inversione di rotta dall'altra parte dell'Atlantico potrebbe portare a conseguenze molto preoccupanti. È come se i mercati fossero diventati dipendenti dal denaro messo in circolazione dalle banche centrali. Se venisse a mancare questa liquidità, molte borse potrebbero tornare sul lottovolante. E si sa, in Europa molti paesi, percepiti come poco sicuri, non dormirebbero sonni tranquilli. Eppure, se l'economia statunitense continuerà a migliorare, ci sarà sempre meno bisogno di queste iniezioni. Ecco perché i prossimi potrebbero essere i mesi del tapering. Ed ecco perché, ad esempio, i dati di ieri, positivi sul PIL americano, cresciuto nel secondo trimestre del 2,5% contro il rialzo dell'1,7% della stima preliminare di un mese fa, non sono stati accolti proprio da tutti con la spensieratezza che si riserva alle buone notizie. Mi viene in mente un paragone fatto più volte, molto sgradevole, però un tossicodipendente quando gli si comincia a togliere appunto la droga, in primo momento sta molto male, dopodiché nel lungo periodo comincia a stare meglio. Abbiamo visto questa situazione paradossale. Ieri il dato sul PIL americano nel secondo trimestre, più 2,5%, che per noi sarebbe un sogno, e in realtà il mercato ha colto male questo titolo, perché a questo punto gli operatori sono sempre più certi che la Banca Centrale Americana comincerà a ridurre questi stimoli monetari. Prima il fiscal cliff, poi il tapering. Ogni tanto gli Stati Uniti ci abituano a termini diversi con i quali, nostro malgrado, dobbiamo prendere confidenza, perché poi chiaramente hanno anche il loro effetto sul portafoglio che abbiamo investito. E anche il fatto che la liquidità verrà fatta mancare sul mercato ha il suo impatto sui paesi emergenti. Luca dalla provincia di Venezia, finalmente la faccio intervenire. Sì, Buona giornata. va bene, grazie, è sempre un piacere intervenire e si colgono sempre utili consigli. Io volevo chiedere appunto riguardo al tapering. E visto che non appena la Federal Reserve ha prospettato, diciamo, l'eventualità di una riduzione di liquidità immessa nei mercati, I mercati emergenti, e mi riferisco in particolare all'India, che abbiamo visto che ha già avuto un deflusso enorme di capitali, e anche al Brasile, che conseguenze possono avere questi paesi se la Federal Reserve metterà in atto queste diciamo strategie di politica certo, monetaria? Certo, come peraltro nelle carte, potrà non essere settembre ma ottobre, ma in ogni caso prima o poi bisognerà cominciare, Luca. Certo, quindi insomma questi paesi che tra l'altro hanno rappresentato un ammortizzatore importantissimo in momenti difficili per l'economia americana ed europea, adesso invece non rappresentano più questo cuscinetto, e dire che la crescita di queste aree è sempre nell'ottica del 7, 8, 9%, e però ci piaceva di più quando crescevano a due cifre. Allora, Alma Foti, i suoi clienti sono posizionati in maniera importante in queste aree e adesso che stanno scendendo molto, lei che ne pensa? È meglio, come dire, puntare ancora di più perché è sulla debolezza che si comprano i mercati, oppure suggerisce di continuare ad uscire? Beh, intanto sull'acquistare è sempre relativo alla propensione al rischio del cliente. Sicuramente io consiglio per i clienti che hanno comprato queste aree, l'hanno comprato in maniera giusta, razionale, assolutamente, quello è sempre l'ideale per affrontare in maniera poco rischiosa il mercato azionario, di mantenere l'investimento, assolutamente. Secondo me poi soprattutto l'India e il Brasile, secondo me potrebbero essere interessanti nel lungo periodo. Il Brasile l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi, ci sono i campionati mondiali, potrebbe essere un'economia che si sta muovendo. Poi parliamo comunque sempre di economie che, come si diceva, hanno dei tassi di crescita interessanti, cosa che non hanno invece le economie sviluppate, che anzi hanno un grosso indebitamento. Adesso il grosso problema si è creato soprattutto sulle valute, che hanno perso molto, soprattutto sulle dichiarazioni fatte da Bernanke, però secondo me questo potrebbe per contro favorire l'esportazione di questi paesi, quindi consideriamo anche questo. Anche l'altra faccia della medaglia. Simone Calamai, qual è invece la sua idea sull'India, sulla Cina? Dell'India si parla moltissimo in questi giorni, il crollo della rupia ad inizio anno, ma anche della stessa borsa, anche qua appuntamenti elettorali importanti, e una popolazione che però è la fame. Esatto, sì. Non c'è tutto sommato la crescita che ci si aspetterebbe, ci sono livelli di inflazione piuttosto elevati e un deficit pubblico che più o meno improvvisamente si è scoperto essere molto più importante di quello che non si pensasse. A livello di consigli personali, ricalco un po' quello che ha detto la collega, cioè sicuramente se ci sono persone che hanno in posizione nei propri portafogli fondi o ETF o comunque altri strumenti relativi a paesi che hanno perso il 20-25% in termini di mercato, più magari un altro 15-20% in termini di svalutazione della moneta, della valuta di riferimento, sicuramente il consiglio è quello di mantenere. Per quanto riguarda appunto consigli per gli acquisti, è un argomento sempre molto delicato perché non si può prescindere da un'analisi di portafoglio e di situazione più generale, però sicuramente come dire, un approccio un po' contrarian può essere anche pagante, no? Quindi perché no non dare un'occhiata anche a queste aree di mondo o per esempio ai periferici europei, che sono i paesi individuati un po' come le prossime conseguenze degli effetti combinati del tapering da una parte e di tutta la situazione geopolitica. Penso per esempio al caso siriano, no? Che non è solo ovviamente riferito a quel paese lì, ma che coinvolge interessi molto più importanti con Israele, Stati Uniti, la Russia che appoggia il regime di Assad e così via. Quindi sì, insomma il mio consiglio del tutto personale è quello di non abbandonarli, perché comunque sono paesi che rappresentano l'area di mondo che più cresce in ogni caso. Esattamente, che lo sviluppo è inevitabile in quelle aree, molto graduale, molto lento, molto lungo, con tutte le incognite politiche naturalmente, ma inevitabile. Forse il segreto è non stare a guardare giorno per giorno se uno investe il proprio portafoglio in queste aree a quello che succede, perché magari è chiaro che ci sono dei periodi lunghi come quello attuale in cui deludono, però bisogna fare un investimento in Cina e in India, poi metterlo nel cassetto Alma Foti e magari non stare lì ossessivamente a controllare il valore della quota di questo fondo tutti i giorni. Faccio un attimo riferimento a una pubblicità fatta dall'ANAF, dall'associazione, anni fa, che era "chi è informato non svende". e proprio c'erano i grafici di chi preso dal panico vende in fase di discesa e poi si perde la fase di recupero. Il gregge che studia molto bene la finanza comportamentale. C'è Vincenzo su Twitter che invece ci chiede, anche questa è un'altra tendenza assolutamente ricorrente in momenti difficili, ci chiede se è ancora utile investire nell'oro o Remida ha perso il tocco, dice Vincenzo. Allora, cosa dice la piattaforma di Fundstore? È un, come dire, uno strumento di investimento, quello nell'oro, che poi chiaramente ha la possibilità di si ha la possibilità di investire in questo settore con molte modalità, non c'è solamente il lingotto o il marengo e la sterlina appunto inglese, piuttosto che fondi, ETF e quant'altro. Ecco, in fasi difficili appunto questi fondi che puntano su questo settore sono molto movimentati, Calamai? Sì, solitamente sì. Sono comunque tutti, appunto, tutti i fondi settoriali sono particolarmente oggetto di interesse in fasi di mercato così combattute, in cui ci sono alcuni mercati che strappano più o meno violentemente in un senso o nell'altro. Quello delle materie prime e dei metalli preziosi è uno di questi. Ormai, al di là di altri strumenti che seguono in maniera più precisa l'andamento di questo mercato, penso a tutti gli ETF sull'oro e così via, ci sono anche numerosi fondi comuni di investimento che sono specializzati nel trattare aziende che lavorano in qualche maniera in questo settore e che quindi hanno un andamento che è assolutamente tendenziale rispetto a quello che è l'andamento delle materie prime o dei metalli preziosi. Certo, Alma Foti, le capita anche di rispondere a domande sull'oro quando incontra i suoi clienti in frangenti appunto particolarmente complessi per il mercato, per chi vuole proteggersi, anche se poi abbiamo visto che con le discese forti del prezzo, perché siamo sui $1,400 l'oncia, quindi abbiamo visto livelli molto più alti, insomma questo è un settore da maneggiare con cura, estremamente volatile, molto più di tutte le altre asset che consideriamo. Assolutamente sì, maneggiare con molta cura, a volte capitano delle domande in questo senso, però si cerca di educare il cliente comunque a non indirizzarsi in una sola direzione. C'è un ascoltatore che mi fa un'osservazione di tipo verbale, nel senso che dice: quando si parla di finanza perché si usa la parola prodotto? Non si tratta di un servizio, quindi non dobbiamo più parlare, io ritengo che abbia ragione, di prodotti di investimento che suggerite, ma servizi di investimento, Foti, forse dobbiamo fare anche noi, io devo fare questa... come sì. Dire, piccola rivoluzione anche mentale, cominciare a parlare in maniera diversa. Noi ci teniamo molto a parlare più di servizi, perché è un servizio che offriamo al cliente e non del prodotto. Esattamente, non state lì come al supermercato appunto a vendere un pacchetto di caffè piuttosto che un pacco di pasta, ma vendete appunto consulenza e qualcos'altro. 800 24 00 24. Un ascoltatore chiede: esiste un fondo di fondi, Calamai? Esistono tanti fondi di fondi, altro che è il meglio del meglio che c'è sul mercato. Esatto, sì. Ce ne sono molti di vari tipi. È il meglio proprio del mondo della gestione. Esatto. Sostanzialmente, tanto per fare un brevissimo inciso, gli hedge funds sono sostanzialmente fondi di fondi, per esempio. Sono comunque strumenti, non gli hedge funds, ma appunto i fondi di fondi, che sono anche a disposizione del risparmiatore che non abbia voglia o comunque possibilità di investire cifre particolarmente ingenti. C'è da dire che tutto sommato il ridursi degli importi minimi necessari per acquistare un fondo rende possibile a chiunque costruirsi, diciamo così, il proprio giardinetto di fondi in maniera assolutamente indipendente, oltre che economica. Visto che c'è un'assoluta trasparenza poi di quelli che sono i contenuti di ciascun fondo di investimento, probabilmente può valer la pena per un piccolo o medio risparmiatore la strada del scegliersi come dire, i singoli fondi da mettere nel proprio portafoglio. E costruire da sé il fondo di fondi. E costruirselo da sé magari il fondo di fondi. Le è venuta l'orticaria, Foti, a sentire questo suggerimento? No, beh, assolutamente no, direi di no, può avere un senso. Ci sono dei fondi di fondi che secondo me sono molto interessanti e sono molto interessanti soprattutto per il piccolo risparmiatore e per la diversificazione che offrono. Però sicuramente ci sono anche dei fondi che sono di per sé interessanti se uno ha a disposizione Un piccolo gruzzoletto può diversificare da soli, seguendo i giusti consigli, ovviamente. Chiudo questo blocco del programma. Abbiamo adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, rispondendo ad Enrico, un ascoltatore, che Alma Foti chiede, vuole sapere se lei è per caso parente di Alessandro Foti, che è l'amministratore delegato di Fineco. Mi sembra di no. No, so chi è Alessandro Foti, ma non sono suo parente. Lo conosco molto bene, lo salutiamo affettuosamente, ma non abbiamo nessun legame di parentela. I nostri ascoltatori sono curiosi su tutto e noi li accontentiamo. Siamo totalmente trasparenti. Per completare il discorso introdotto dall'ascoltatore che chiedeva delucidazioni sul tema del fondo, dei fondi, Alma Foti, magari vale la pena ricordare anche che se si facesse una scelta di investimento su strumenti di questo tipo, questo non so, o un servizio di investimento di questo tipo, le commissioni in questo caso chiaramente si duplicano. Diciamo che sono più elevate, perché ci sono le commissioni di gestione dei fondi e la commissione del fondo dei fondi. E quindi vanno sicuramente valutate. Poi sicuramente se il fondo è buono si guarda la performance, esattamente, che è già netta da queste compensa, esatto, può compensare. Per cui ecco, non dimenticatevi di questo aspetto. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Allora, un paio di ascoltatori da città totalmente diverse, per cui non abbiamo nessun dubbio sul fatto che non si conoscano, ci chiedono però la medesima cosa. Ci chiedono se è possibile assicurarsi contro prestazioni negative del servizio di investimento che si sceglie. Allora, questa è veramente una tendenza che scopro questa mattina. Addirittura un ascoltatore ci chiedeva appunto se in via individuale si può fare la sottoscrizione di un credit default swap, che è quel meccanismo assicurativo che assicura un investitore importante dal rischio di bancarotta di un paese o di altre emittenti. Un altro ascoltatore chiedeva appunto, è possibile individuare, no aspetta, sono altro, ecco, esistono possibilità di assicurazioni su scelte fatte nel portafoglio. Adesso, a parte il fatto che magari possiamo un po' sorriderci sulla ingenuità, tra virgolette, passatemi il termine, degli ascoltatori, però ci offrono uno spaccato interessante sull'esasperata necessità di proteggere il proprio risparmio. Alma Foti, questa è diventata l'esigenza primaria negli ultimi anni di tutti. No, intanto avremmo risolto tutti i nostri problemi, anche come professionisti. Esatto. E quindi io ne sarei trovare molto, un altro lavoro probabilmente. Ne sarei molto felice. No, e che sintomatiche a queste domande, perché ormai da un po' non esiste più quello che noi chiamiamo il free risk, cioè il rendimento senza, esatto, rischio. Visto che anche mamma Italia, nel senso il papà Bot, ci ha abbandonato in questo senso. Assolutamente sì. Poi abbiamo visto il 2011, cosa è successo ai titoli di Stato, quanto hanno perso, per cui quello che sembrava essere l'investimento senza rischio è... Per cui è chiaro che adesso le domande di questo tipo, come posso proteggermi da... Però... Anche il mattone ha tradito appunto le attese della, come dire, della famiglia italiana, il momento in cui chiaramente il mattone si sceglie come investimento, poi quello che si sceglie per abitarci, per farci la dimora della propria famiglia per sempre, è un altro discorso. Però Foti, anche questo è un tema assolutamente interessante. Sì, io dico sempre, siate coerenti con quello che è la vostra tolleranza alle perdite, siate coerenti con i vostri, aiutati anche dal vostro professionista, quali sono i vostri obiettivi sugli investimenti, e secondo me questa è una forma di protezione, perché si fa la giusta diversificazione, quindi si ragiona a livello settoriale, quindi la parte di riserva, la parte di investimento, anche la parte destinata alla speculazione. Se si fa questo, secondo me non si hanno grossi problemi. Simone Calamà, invece, Fanstore, sul tema della ricerca esasperata della conservazione del proprio capitale, che mi sembra, come dire, l'ABC dell'investimento. Quantomeno il capitale lo si vuole conservare, poi se si guadagna qualcosa è meglio, e se non si perde è meglio ancora. Sì, diciamo appunto, al di là del sorriso che è venuto un po' a tutti, sì, la domanda è assolutamente sintomatica. Io credo che non esiste, almeno nell'accezione della domanda che hanno fatto gli ascoltatori, non esista un investimento sicuro, ma esistono però gli investimenti più o meno trasparenti e gli intermediari probabilmente anche più o meno trasparenti. E quindi il consiglio che posso dare agli ascoltatori è assolutamente quello di non aver paura di fare domande, non aver paura di come dire, andare a fondo rispetto a quelle che sono le cose che vediamo scritte o che ci vengono dette. E la vera sicurezza dell'investimento è quella, no? Quindi comprare qualcosa che sia in grado di capire da qualcuno che è in grado magari di raccontarci esattamente come stanno le cose o come potrebbero andare in caso di mercati o di congiunture non esattamente favorevoli. Allora, intanto salutiamo Francesco che mi scrive: Signor Rosciani, sono arrivato adesso, quindi ci scrive proprio negli ultimi passaggi della trasmissione, ma raccogliamo volentieri la sua domanda. Cosa dicono i suoi esperti in studio sul tema azionario in Europa e America? Allora, un pochino abbiamo toccato anche, sfiorato, insomma, questi argomenti relazionandoli al tema della riduzione degli stimoli monetari da parte della Banca Centrale Americana, che al momento non si traducono in un aumento dei tassi di interesse, per le prossime settimane, i prossimi mesi, ben Bernanke comincerà a comprare meno titoli di Stato di quello che appunto ha fatto fino, rispetto a quello che ha fatto fino a questo momento. Per cui ecco, è tutto estremamente graduale. Però siamo appesi alle decisioni delle banche centrali e probabilmente più avanti anche la Banca Centrale Europea di Mario Draghi qualche cosa lo farà, anche se in realtà qua si ipotizza un'altra diminuzione dei tassi di interesse in Europa nei prossimi mesi, perché qua l'economia ha bisogno di ben altri interventi rispetto agli Stati Uniti. Ma insomma, ma dobbiamo veramente stare appesi alle parole di Ben Bernanke e Mario Draghi, Alma Foti? I suoi clienti che dicono, insomma, se le chiedono pure del tapering, pure chiamiamolo insomma in maniera professionale. No, diciamo che non arrivano proprio domande così Però i tassi specifiche. di interesse è una componente importante, chiaramente. Assolutamente, assolutamente sì. Rifacendomi alla domanda Azionario Europa e America. Ecco, sicuramente sono due azionari che sono ancora positivi, sono anzi positivi Eh da sì, inizio siamo sui dell'anno, record. assolutamente, soprattutto il mercato americano che continua comunque ad andare bene. E stranamente il mercato da cui nascono i problemi, partono le tensioni e poi il mercato che chiude sempre in maniera positiva. Questo è abbastanza. Ci rifacciamo ai discorsi di prima, comunque sono dei mercati che sono in crescita, ma che comunque sono mercati che hanno un forte indebitamento, che hanno diversi tipi di problematiche. Insomma, bisogna conoscere anche questi aspetti. Sui tassi di interesse, Calamai vuole aggiungere qualcos'altro? L'idea della Banca Centrale Americana, come dire, non faceva una piega, no? Quindi diminuire il quantitative easing, si sarebbero visti probabilmente rendimenti dei bond americani in salita, ma l'economia sarebbe stata sufficientemente forte comunque da reggere anche una dinamica dei tassi di questo genere. In realtà poi quanto è successo sui mercati emergenti mixato con la situazione in Medio Oriente sembra far vacillare un po' questo intento, no? E quindi appunto succede che una notizia eccellente come quella che abbiamo sentito prima sul PIL americano venga letta addirittura in controtendenza perché si vorrebbe che la Fed continuasse a stampare moneta per mantenere i tassi su livello tendenzialmente più basso. Come così, impressione generale, il mercato americano, che resta sempre il mercato azionario di riferimento, è un mercato che indubbiamente è salito molto, e quindi anche per coerenza rispetto a quello che ho espresso prima, sicuramente non è uno dei mercati che consiglierei come mercato di riferimento per un risparmiatore così nel prossimo periodo. È un mercato sul quale probabilmente, anche a seguito di tutte le dinamiche connesse all'operato della Fed, si potrebbero vedere anche alcuni momenti di importante tensione, insomma. Certo. Tornando per un attimo magari all'Italia, Alma Foti, il posizionamento dei suoi clienti sul mercato italiano in questo momento qual è? Perché la borsa italiana è quella che è cresciuta molto meno delle altre, perché c'è un grande peso appunto del settore bancario, nei listini di riferimento e per tanti altri problemi, perché qua l'economia non cresce, abbiamo tanti problemi, la tensione politica, probabilmente lei ha una visione particolare su Milano, oppure come dire, non la considera solamente una microporzione di portafogli appunto diversificati che suggerisce ai clienti. No, diciamo che l'italiano tendenzialmente quando compra azionario ragiona sull'azionario italiano. Italiano. Spesso mi capita dei clienti che hanno degli investimenti nei mercati emergenti, guardano l'indice italiano e si preoccupano in un senso o nell'altro, perché poi è sempre il mercato di riferimento. Per la parte che si decide di mettere in Europa, sicuramente l'Italia viene presa in considerazione. Quindi, Questo. nonostante appunto le banche siano sempre un po' ballerine, però tutto sommato non ci dimentichiamo, anche se, come dire, magari qualche volta l'italiano medio non si convince di quello che diciamo, ma insomma non abbiamo avuto banche che hanno chiesto aiuti di Stato, a parte il caso di Montepaschi, ma lì era un'altra faccenda, non era appunto legata alla crisi internazionale, per cui non dimentichiamoci anche di questo aspetto. Stanno scendendo molto, dobbiamo fare in modo appunto che si sblocchi anche la situazione perché ricomincino a ridare un po' di soldini all'economia reale. Fondi azionari Italia, caramba, mai vengono molto, sono particolarmente movimentati sulla vostra piattaforma? Meno di quanto si potrebbe pensare in realtà, perché ormai il risparmiatore, appunto, è un risparmiatore evoluto ed ha sostanzialmente compreso che il mercato italiano, per quanto quello più semplice da capire perché ha a che fare con la realtà di tutti i giorni, in realtà nello scenario europeo o addirittura mondiale non pesa poi così tanto, no? E quindi più che il fondo magari specializzato sull'Italia, si cerca il fondo sull'Europa, del quale l'Italia è una componente. Abbiamo indubbiamente all'interno del nostro listino aziende di assoluta importanza, anche certo, proprio sullo scenario europeo, e che stanno facendo molto bene o che comunque saranno molto importanti anche alla luce di tutto l'andamento delle materie prime. Penso a Eni. Certo, tanto per tanto per dirne sì, una, anche se hanno avuto altri problemi, appunto. Esatto. Le petrolifere in questo periodo, tra l'altro, cinicamente beneficiano anche della crisi siriana. Però, insomma, speriamo che per la verità non si debbano più verificare. In realtà, poi queste primavere periodicamente ricorrono e ci turbano un po'. Abbiamo terminato la nostra trasmissione. Siamo ormai tutti di nuovo pienamente operativi. Le ferie sono finite per tutti. Alma Foti, primo impegno lunedì per lei, a ritorno al lavoro. Lunedì al ritorno al lavoro sono impegnati in un corso di aggiornamento, ecco, perché noi siamo che gli esami non obbligati, finiscono mai, non finiscono naturalmente mai. Calamai per lei invece, che invece è operativo già da qualche giorno come me, ci saranno alcuni nuovi prodotti su Fan Store e ci spingeremo ancora di più, come accennavo prima, verso il mondo della consulenza finanziaria. Quindi novità in arrivo, work insomma. In progress anche per voi. Grazie per essere stati con noi. Salva Danaio torna lunedì. Grazie a tutti, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica. A tutti buona giornata.